Ci pare che sia alla portata di Bologna il fatto di profilarsi come una delle città meno diseguali d'Europa, ma a condizione di investire anche sulla regolazione. Se pensiamo all'economia urbana, c'è una fase di sviluppo, in particolare in alcuni settori come il turismo, come la ristorazione, come il settore culturale, e al tempo stesso in quest'ambito c'è un aumento della ricchezza senza che questa ricchezza sia distribuita, e c'è un aumento delle possibilità occupazionali senza che questa occupazione sia stabile e di qualità. A fronte di una legislazione nazionale, di una contrattazione collettiva nazionale insufficienti a contrastare alcuni degli effetti dell'espansione della city of food, della città turistica, eccetera, abbiamo messo in campo delle proposte. In tema di lavoro ne abbiamo formulate tre. La prima ha a che fare con la regolazione della city of food, perché questo cibo talvolta risulta indigesto, specie rispetto ai lavoratori che operano in questo settore. Abbiamo proposto, su un modello già adottato nell'ambito del comune di Napoli, di disporre come amministrazione la revoca dei deor, che costituiscono un'opportunità di incremento dell'economia di un pubblico esercizio nel caso in cui siano riscontrate irregolarità retributive, contributive o relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Il deor viene concesso su uno spazio pubblico, l'amministrazione ha una sua competenza. Il fatto di introdurre il rispetto delle regole in tema di lavoro per la concessione di un beneficio è non solo possibile ma anche opportuno. In secondo luogo, abbiamo suggerito all'amministrazione, esattamente come accaduto per la carta dei diritti dei rider, di farsi promotrice insieme alle parti sociali di tavoli di negoziazione per giungere a una cosa che noi chiamiamo contrattazione collettiva di strada, e cioè il fatto che alcuni benefici, come per esempio deroghe al regolamento orari, sconti su alcune tasse comunali, siano consentiti solo ai pubblici esercizi che si impegnano a migliorare gli standard di qualità del lavoro. Faccio due esempi molto banali: prediligere il contratto di lavoro a tempo parziale verticale, preferendolo al lavoro a chiamata, al lavoro intermittente, o ancora stipulare contratti di durata superiore al trimestre o al semestre, invece dei contratti brevi o brevissimi che ammorbano il settore, specie della ristorazione e del turismo. Secondo, ci pare che un settore come quello culturale, la cui crescita è ovviamente da noi ben vista, conosca anche lavoro precario e spesso gratuito. La sollecitazione che facciamo è quella di mutuare il modello Carta dei diritti per scrivere una Carta dei diritti del lavoro nel settore culturale, affinché siano assicurati alcuni standard di qualità e soprattutto sia previsto a che condizioni può essere prestato lavoro a titolo gratuito. Perché noi capiamo che in occasione di un festival culturale, di un festival del cinema, ci siano studenti o giovanissimi ricercatori che possono avere piacere a collaborare alla costruzione di un festival perché rappresenta un'occasione formativa, ma non si può chiedere lavoro a titolo gratuito per qualunque tipo di mansione, per qualunque tipo di competenza. In altri termini, nel settore culturale ci pare che talvolta, più che mancare il lavoro, manchi la volontà di pagarlo, e quindi è un settore che va regolamentato. Terza e ultima questione, attinente alla implementazione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali. Siamo alla scadenza del semestre previsto per un monitoraggio nell'attuazione della Carta. Qui, da un lato, c'è sostanzialmente una mancata attuazione, anche da parte dei sottoscrittori, dei principi e dei diritti garantiti dalla Carta, forse legata ai ritardi del tavolo ministeriale su questo tema, ma per certo va allargato il suo raggio d'azione coinvolgendo le piattaforme non firmatarie, e per altro verso, aspetto che voglio sottolineare, devono essere coinvolti i ristoratori. Non solo perché i ristoratori devono potersi impegnare a concludere contratti e rapporti di partnership con le piattaforme firmatarie della Carta dei diritti, ma anche perché i ristoratori stanno diventando in qualche qualche caso vittime delle piattaforme di food delivery. I rapporti con le piattaforme di food delivery finiscono per condizionare la stessa organizzazione del lavoro dei ristoratori e talvolta i ristoratori sono costretti a pagare cifre esorbitanti in termini percentuali alle piattaforme per poter partecipare al lavoro di consegna. Allora esiste un profilo, se vuoi individuale, anche di abuso di posizione dominante, ma questo aspetto a nostro giudizio può essere affrontato anche in una dimensione collettiva, facendo partecipi i ristoratori e le loro rappresentanze della partita Carta dei Diritti, affinché vi siano degli standard omogenei che evitino a alcuni ristoratori magari più deboli o fragili di pagare un pizzo come il 30% del costo di una pizza a colui che la distribuisce nell'ambito del food delivery. Tutte queste cose si possono fare e vorremmo diventasse un tabù, nel senso che vorremmo diventasse impronunciabile la frase "non si può fare". Si può fare tutto, è una questione di volontà politica. Quello che proponiamo di fare è null'altro che esercitare, magari in modo obliquo, magari in modo indiretto, delle competenze dirette dell'amministrazione per interferire su segmenti su cui l'amministrazione non ha potere regolamentare diretto, ma può averne di indiretto, perché stiamo sempre parlando di suolo pubblico, di ordinanze comunali, di regolamenti orari e quindi di cose che rientrano appieno nelle competenze dell'amministrazione. Se la politica vuole riguadagnare cittadinanza, consenso e credibilità al cospetto della cittadinanza, non può più dire "non si può fare".